Quando che bacine, che le nautine, ma che bacine, baci baci adore, ma che bacine, che me lo dire, ma che bacine, ma che baci adore, ma che bacine, che me lo dire, ma che bacine, ma che baci adore, ma che bacine, ma che baci adore, ma che bacine, ma che baci adore, ma che bacine, ma che baci adore, ma che bacine, ma che baci adore, ma la musica davvero magica, e come l'ascolti la suoni anche tu, lanci magie e melodie, ma che magie, ma che magie d'ore, ogni fiore sa che un giorno sfuccerà, profumando il mondo di felicità, quando sfiorirà una terra bracera, dipingendo un arco d'aleno, dal cielo brillerà sempre con cammino illuminerà, senti la canzone che intona al cuore, ai, come se appenate, ma che magie d'ogni fai un pentagramma, vola così tanto desisto di, tu nel programma perché non puoi dire le dici, impara a fare anche la banda, ma che magie d'ogni come dai, veloce noi siamo qui, I'm not the one you need.